sempre caro mi fu quest'armo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Molière, malato immaginario, Baudelaire, poeta visionario, tiro dadi sulla barca della morte, dura sorte, porte chiuse, inferno e morte, la notte, pantera nera, onirica morte. Rolex Daytona, cita storie, eco in paranoie di memorie di rime, tic-tac, fottuto o vivo, leopardi di un amore infernale, sposa cannibale, mangia la mia carne. Werner, oltre i confini del mondo, blu blu profondo, come Dante, sfondo l'inferno per la libertà, come diavolo amo i miei peccati, sottraendo con virtù le mie condanne. Rolex Daytona, cita storie, eco in paranoie di memorie di rime, tic tac, fottuto vivo, leopardi di un amore infernale, sposa cannibale, mangia la mia carne. Amo i soldi, la libertà d'oggi, li odio, validi, al dividere, versi di destino all'avverarsi, amo tutti i miei giorni persi, come una rockstar fallita, bevendo i miei versi a mariearsi. Rolex Daytona, cita storie, eco in paranoie di memorie di rime, tic tac, fottuto vivo, leopardi di un amore infernale, sposa cannibale, mangia la mia carne. Molière, malato immaginario, Baudelaire, poeta visionario, tiro dadi sulla barca della morte, dura sorte, porte chiuse, inferno e morte, la notte pantera nera, onirica morte. Rolex Daytona cita storie, eco in paranoie di memorie di rime, tic tac, fottuto vivo, leopardi di un amore infernale, sposa cannibale, mangia la mia carne. Divento agnello di Dio metallico, guardando il cielo e stendendo terra, angelo della morte satanico, divento di Apocalisse, sono uno zero di tempo troppo vero, in un mondo menzognero, vegliero di paura, salpa. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragare m'è dolce in questo mare.